Radio 24 Reportage. Quel che resta di COP15 di Daniele Pernigotti. I vegani oramai sono ritratti il ruolo di comitato d'accoglienza nei negoziati sul cambiamento climatico. Travestiti da galline o dispensando sandwich vegetariani ai delegati giunti da tutto il mondo, propongono la loro dieta senza carne come semplice soluzione al riscaldamento del pianeta. La situazione all'interno dell'hotel Mertens di Bonn è però più complessa. 6 mesi di distanza, circa 30 gradi di differenza, separano la conferenza di Copenaghen dai lavori tedeschi, oltre che un incredibile sconvolgimento in termini di aspettative. L'incontro danese era posto al termine di un ambizioso percorso avviato nel 2007 a Bali, per arrivare ad un'economia mondiale a basso contenuto di carbonio. Ora a Bonn si devono raccogliere i cocci del suo fallimento e lavorare per un difficile accordo nella prossima conferenza di Cancun. C'è però prima un grosso ostacolo da superare, l'accordo di Copenaghen. Documento di grande peso politico, forte delle firme di 120 capi di Stato e di Governo, responsabili di più dell'80% delle emissioni globali di gas serra. Per contro, il suo valore negoziale è quasi nullo, perché l'assemblea dell'UNFCCC non è riuscita a raggiungere un consenso unanime intorno ad esso, limitandosi a prendere nota dell'accordo. L'opposizione al suo recepimento è stata guidata da un'inedita alleanza tra paesi del Sud America ed isole del Pacifico, esclusi completamente dalla stesura del testo, come ci spiega Claudia Salerno Caldera, inviata speciale per il cambiamento climatico del Venezuela. The document was actually produced outside the UNFCCC. L'accordo di Copenaghen è stato prodotto all'esterno della UNFCCC. È stato un accordo politico tra pochi paesi riuniti all'interno di una stanza e che hanno raggiunto un'intesa tra di loro, senza tenere in considerazione il lavoro fatto dai negoziatori negli ultimi anni. La plenaria era stata convocata alle 18 ed anche i ministri hanno atteso fino alle 23, quando alla televisione, in una conferenza stampa, il presidente Obama ha indicato un documento che aveva il supporto di tutto il mondo. Nel frattempo noi siamo rimasti ancora nella plenaria ad aspettare fino alle 3 del mattino, quando il primo ministro danese è entrato nella stanza con un documento che ha presentato alle parti come la conclusione del negoziato che la plenaria avrebbe dovuto adottare. Potete immaginare lo shock per i paesi sovrani davanti ad un trattamento di questo tipo. How shocking would it be for a sovereign country to be treated like that? A Bonn anche la Cina, una delle maggiori responsabili del testo finale dell'accordo di Copenaghen, sancisce il fallimento della conferenza di dicembre. King Tai Yu, rappresentante della delegazione cinese, riconosce come in Danimarca sia andata distrutta la disponibilità al dialogo che aveva sempre caratterizzato il negoziato sul clima. Tale missione è un segnale del netto cambiamento attuato in Germania da tutti i paesi, con una rinnovata disponibilità ad ascoltare e discutere la visione altrui. La Cina continua però a ricoprire un ruolo di protagonista nei negoziati sul clima ed il suo rifiuto ad accettare impegni vincolanti rimane un importante ostacolo in direzione dell'accordo finale. Continuare a classificare il gigante asiatico, da tempo primo emettitore mondiale di gas serra, come paese in via di sviluppo al pari delle altre nazioni che costituiscono il G77, è però sempre più difficile e tra i paesi più poveri cresce la voglia di chiedere impegni differenziati alle economie emergenti. Tra questi vi è il gruppo africano, creatosi solo lo scorso ottobre a Bangkok e che sta acquisendo un ruolo negoziale di sempre maggiore autonomia. Abbiamo sentito Boubacar Sidiki Dembélé, funzionario del Ministero dell'Ambiente del Mali. L'Africa è ben unita adesso e questo perché abbiamo gli stessi interessi ed è l'obiettivo comune che unisce le persone. Io penso che noi abbiamo lo stesso problema delle piccole isole oceaniche. Come sopravvivere? L'aumento della temperatura, l'innalzamento del livello del mare. Questi sono i punti che dobbiamo cercare di affrontare assieme per evitare che questo accada. La Cina ha un diverso punto di vista, perché ha un'altra economia, una grande economia che vuole continuare a crescere in futuro. Provare a chiedere loro degli obiettivi di riduzione ambiziosi significa provare a stoppare il loro sviluppo. Questo è il motivo per cui India, Cina e Messico, ad esempio, non vogliono assumere veri e ambiziosi obiettivi di riduzione. Ma guardando un futuro accordo a Cancun o l'anno successivo in Sudafrica, è ragionevole pensare che saranno richiesti degli impegni maggiori per l'economia emergente rispetto ai paesi africani? Sì, certamente. Gli Stati Uniti sono, insieme alla Cina, l'altra statua di gesso della trattativa sul clima. Nonostante la grande svolta politica di Obama rispetto alla presidenza Bush, gli americani non riescono ad uscire dall'angolo negoziale in cui si sono cacciati, prima con il rifiuto ad aderire al protocollo di Kyoto e poi con l'incapacità di approvare una legge federale in gioco da moltissimo tempo, ma che stenta ad arrivare alla fase finale. L'incidente alla piattaforma petrolifera della BP sembra però aver destabilizzato il quadro, come ha evidenziato l'attore Robert Redford in un recente messaggio. C'è bisogno di mettere pressione a queste compagnie e al governo, ed in particolare a quei politici che sono collusi con le aziende energetiche e ricevono molti soldi da loro per riuscire ad essere eletti. Noi paghiamo i costi, non loro. Non dobbiamo ascoltare la propaganda interessata delle compagnie petrolifere e dei loro pappagalli al Congresso. Se c'è una lezione in tutto questo è che noi dobbiamo uscire dalla dipendenza dal petrolio. Secondo Jake Schmidt, responsabile internazionale delle politiche climatiche della ONG Natural Resources Defense Council, quanto accaduto al largo delle coste americane rappresenta l'avvio di una svolta importante. The BP oil spill is a wake-up call, I think, for the American public that... L'incidente della BP è una sorta di sveglia per i cittadini americani. Un sondaggio di Yale e George Mason University, pubblicato qualche giorno fa, mostra come più del 70% del pubblico americano vuole ora una chiara regolamentazione delle emissioni di CO2. In un altro nostro sondaggio di qualche settimana fa risultava che il 60% dei cittadini vogliono una legge su clima ed energia entro quest'anno, e questo è un segnale molto importante per i decisori politici. Giovedì scorso il Senato ha rigettato la proposta di legge della senatrice Lisa McCaskey di togliere all'EPA, l'Agenzia Ambientale Americana, il diritto di regolamentare le emissioni di CO2. Credo che l'incidente della BP abbia chiarito quale sia la direzione da percorrere. E quando potrebbe essere approvata questa legge? Quest'anno. A Bonn si è iniziato a discutere anche di agricoltura, tema che si aggiunge alla gestione delle foreste già da tempo al centro del negoziato. Nel difficile linguaggio degli Sherpa si usa il termine LULUCF nel caso dei paesi sviluppati e RED per la lotta alla deforestazione nei paesi in via di sviluppo. Anche qui però non mancano le voci molto critiche di chi teme che simili argomenti possano essere utilizzati in modo poco trasparente. Kevin Conrad è l'inviato speciale per il cambiamento climatico della Papua Nuova Guinea. Land use change is the biggest escape clause in the entire framework. It's a very serious issue. L'ULUCF è la più grande via di fuga all'interno del UNFCCC. È veramente una questione importante. La si può chiamare frode o in altro modo, ma di fatto ai paesi ricchi è consentito di scegliere le aree forestali che vogliono considerare e ignorare le aree di foreste dove tagliano gli alberi. Ciò ha un impatto così significativo che la Russia ha affermato che se dovesse calcolare onestamente tali emissioni, sarebbe costretta a ridurre i propri obiettivi di riduzione dal 30 al 15%, cioè il 50% in meno. Ma c'è la possibilità che a Cancun si possa arrivare ad un accordo su entrambi? I paesi in via di sviluppo hanno la volontà di essere onesti. Se anche quelli ricchi faranno lo stesso, l'accordo ci sarà. Per arrivare ad un accordo, sia esso a Cancun nel dicembre di quest'anno o in Sudafrica nel 2011, è necessario garantire aiuti finanziari ai paesi in via di sviluppo, cercando di realizzare nuove economie a minor contenuto di carbonio. I paesi meno sviluppati chiedono però che una parte significativa di questi finanziamenti sia utilizzata per ridurre gli impatti causati dal cambiamento climatico, il cosiddetto adattamento. Così la pensa Selamut Uk, direttore del programma sul cambiamento climatico del Bangladesh. The climate change problem now unfortunately has reached a stage where even if we... Il cambiamento climatico ha raggiunto purtroppo ormai una dimensione per cui, anche se riduciamo a zero le emissioni oggi, la fisica del sistema è tale che per i prossimi 10 o 20 anni noi avremo degli impatti inevitabili. Saranno impatti globali, ma ricadranno maggiormente sulle spalle delle persone povere che di quelle ricche, e quindi interesseranno di più i paesi poveri. Questo è un problema più immediato nel breve termine di quello della mitigazione. Per questa ragione per noi l'adattamento è più importante. Il cosiddetto non-paper, stilato a Bonn, prendendo spunto anche dal discusso accordo di Copenaghen, prevede un finanziamento a carico dei paesi sviluppati di 30 miliardi di dollari per il triennio 2010-2012 ed una progressione che dovrà arrivare a 100 miliardi di dollari l'anno nel 2020. Di come recepire risorse economiche nuove ed addizionali si parlerà già nel prossimo incontro di Bonn ad agosto. Ban Ki-moon intanto ha messo a lavoro un gruppo ad hoc per valutare i possibili nuovi meccanismi di finanziamento che dovrà produrre un rapporto per ottobre, giusto in tempo per trovare spazio nelle borse dei delegati in partenza per Cancun.